24. Storie di star. Senza fine tu trascini la nostra vita. La cantante più sensuale della musica leggera italiana. La definirei una donna intelligentissima, con grandi capacità creative. Non è mai contenta di quello che ha ottenuto, per cui sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Cioè, più milanese di Della Manoni c'è soltanto il risotto. Milanese come il risotto, come il panettone, come la Madonnina del Duomo, un'icona del nostro tempo, un personaggio che dal teatro alla televisione ha imposto una personalità dirompente, dalla voce inconfondibile, è Ornella Vanoni, una delle grandi, grandissime interpreti della canzone italiana. Bella e seducente, per generazioni intere ha rappresentato un modello di trasgressione e di raffinatezza. È stata l'eterna rivale di Mina, al contrario della Tigre di Cremona, però la Vanoni non ha mai smesso di affrontare il pubblico con concerti che ogni volta fanno il tutto esaurito. Quella di Ornella Vanoni è una storia che viene da lontano e che ha i colori tenui di una mattina ai Navigli e quel sapore ruggente di una Milano che non c'è più. Così si descriveva. Inizia a cantare per caso questa ragazza, perché la inventano. Cioè, lei veramente si è iscritta al piccolo teatro perché non sapeva cosa fare. Alla scuola stava lì, era timida e sperava sempre che non la interrogassero. Racconta che è stata cantante per caso, potrebbe essere. Però questa è una carriera artistica che non ti capita, la scegli. Al piccolo teatro di Milano, Ornella Vanoni incontra Strehler, giovane e genio del teatro pubblico milanese, inventore di un'inedita versione di Brecht. Si innamorano e da questo incontro nasce la canzone impegnata, intelligente. Le canzoni della Mala. Che facciamo di questa ragazza? Recitare non può perché è la compagna di Strehler. Allora cosa potrebbe fare? Cantare. Senti che orecchio che ha. Canticchia tutte le opere che io faccio. E allora alla ricerca di questi brani popolari. Cantante della Mala era un'idea forte. Se qualcuno non ricordasse cos'era sta Mala, cos'erano queste canzoni della Mala, vorrei che Ornella ci ricordasse un verso, una parola. Dice, non so, lei che viene dalla Mala, pardon, se no, non sì. È che vengo dalla Mala, facevo le canzoni della Mala. Sì. Erano canzoni così, popolari, che parlavano di problemi di gente povera, di gente così della Bovisa, di Milano. Alcuni erano testi scritti apposta e altri erano tratti così da delle idee, degli spunti veri. Se voi oggi chiedete a un detenuto milanese di San Vittore chi ha scritto la canzone A San Vittura Ciappa i Bot, che fu una delle prime canzoni che lanciò nella Vanoni, vi risponderà che è una canzone popolare. Non è affatto vero, l'ha scritta Fiorenzo Carpi e Giorgio Strehler per inventarsi questa cantante della Mala, perché aveva questa faccia dura, questi capelli ricci, questa faccia in fondo abbastanza sofferta. Ero sempre vestita di nero, avevo la bocca rossissima, già grande come adesso, non l'ho gonfiata, era già una boccona, e poi tutta un po' cupa così. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica, era in salita ma pedalava in fretta. Poi l'han beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello, quando gli danno l'ultima mazzata. Fin da ragazzo correva in bicicletta, per l'amatori di Gallaratese, con

senza fine. Viva, viva, viva.